anticipato la presenza di ospite in diretta e ne siamo ben contenti al Breakfast Club in scena quando sono le 8 e 6 minuti. In scena ho aggiunto, parleremo ovviamente, va da sé, di teatro e non solo, parleremo di meteorologia. Siamo con Alessandro Tampieri. Buongiorno Alessandro. Buongiorno William, buongiorno a voi. Entrambi alleati a favore del bel tempo, ci troviamo spesso in minoranza, ma facciamo un'opposizione molto dura, senza esclusione di colpi, per aspettare una splendida estate. Questo è un po' il nostro slogan che ci accomuna, anche perché con l'estate, oltre che le bellissime emozioni, abbiamo la possibilità di passeggiate artistiche di cui vi parleremo a breve, insomma. Poi, bando a queste nostre divagazioni, ho detto andiamo in scena con il teatro, ma anche con la rubrica In Mostra e con l'arte. Il lungo 800 a Bologna, una realtà espositiva fondamentale non solo per la nostra città, un lavoro imponente che sta portando a disposizione di appassionate e appassionati diverse possibilità, anche quella, come ho detto, di una possibilità di fruizione alternativa, ma di questo ne parleremo con Alessandro. Intanto come stai, Alessandro? Bene, bene. Mi fa piacere, sei a tuo agio in diretta? Sì, dai. Sì, sì, ma certo. Ma sì, oramai puoi fare co-conduzione, basta che non mi rubi il posto. Detto questo, cominciamo. Passeggiate artistiche, ci puoi dire qualcosa di più? Sì, allora, si tratta di uno degli eventi collaterali alla mostra diffusa sulla pittura bolognese nel lungo 800. Quando Roberto Martorelli, che insieme a Isabella Stancari ha curato questa mostra, che è un'impresa perché è una mostra diffusa nell'arco di più di un secolo, diffusa su più sedi nella nostra città e non solo, nell'area metropolitana, e ci ha chiesto di creare pensare a un evento collaterale che potesse accompagnare la mostra, abbiamo pensato di portare quel format che abbiamo già sperimentato in altre situazioni, ad esempio la Certosa, dove torneremo anche quest'anno, posso fare lo spoiler perché ormai è ufficiale, e quindi portiamo gli strumenti del teatro partecipato per portare un punto di vista diverso rispetto alla mostra, innanzitutto perché non entreremo nelle varie sedi. Abbiamo scelto di fare queste camminate artistiche al sabato mattina, proprio perché poi resta l'intera giornata per poter visitare una o più delle tante sedi che in città ospitano le opere di questa mostra, e noi ne parleremo da fuori, creando un collegamento tra i temi, i quadri, gli autori, ma soprattutto con un punto di vista che vuole essere quello del teatro partecipato, in cui non facciamo spettacolo e gli spettatori guardano, ma insieme a chi partecipa a questa camminata artistica costruiremo insieme un'esperienza sul modo di osservare lo sguardo, il punto di vista, una visione periferica, panoramica, l'attenzione ai dettagli, l'attenzione a tutti quegli elementi che fanno parte poi del processo creativo anche di un pittore che si accinge a dipingere un'opera. Certo, e a proposito di questa espressione di un'esposizione quanto mai diffusa che abbiamo portato seguendone ogni parte, di non solo museale ma anche emotiva, aggiungere intersezione artistica e far partecipare come se fosse una diretta, però un po' un dietro alle quinte attivo, se vogliamo, ecco, per esattamente quelle esattamente. Che sono le visitatrici e visitatori più curiosi e anche più attenti, per alzare, come dico sempre, l'asticella in ambito di un aspetto interdisciplinare. Io metterei un po' di musica anche perché mi ha emozionato l'ispirazione a un grandissimo dell'Ottocento. Nasce a Castelguelfo, e Antonio Basoli è questo autore che, così, ho parlato con il professore che è curatore tra l'altro di una particolare sede espositiva a Palazzo Faba, sempre all'interno del lungo 800, e così fuori onda: ma professore, parliamo di Antonio Basoli, è impossibile rinchiuderlo in un aspetto artistico unico, ma Proviamo a darne una definizione. Lui ha risposto: Antonio Basoli è fantastico. Ecco, in tutto questo io condivido pienamente, perché è fantastico a tutti gli effetti, e ne parleremo magari dopo lo stacco musicale con questo brano che ci porta a sognare. Ha un aspetto onirico ma anche qualcosa di concreto. Hatchback, a tra poco. Closer to Forever, molto vicini a quello che è un per sempre, e del resto è tutti i tempi Antonio Basoli. Pensate che bastava chiudere gli occhi per questo artista e immaginare quello che lui in realtà non aveva mai visto realmente, da immagini a città, dalle emozioni, da immagini ai paesaggi, a quello che lui sentiva. E poi guardando quella che è una realtà per il visitatore che realmente è stato in quei posti, poi arriva il commento con introspezione: oh, non è esattamente così, ma è andato molto vicino, Antonio Basoli da queste interpretazioni magari non ha mai visto il luogo che va a dipingere, però è capace di rendere l'idea a modo suo. E quando invece qualcuno l'ha visto realmente, ma pensa a te, oh, quasi quasi direi che ci siamo, assolutamente un'interpretazione personale che diventa valore aggiunto. Poi vi parlerò anche di un'opera o più opere che a me veramente hanno coinvolto tantissimo, che è il 1839, Antonio Basoli dipinge l'alfabeto pittorico, un altro aspetto meraviglioso che ha un che di letterario e storico, ma ne parleremo. Come ben sapete, l'intersezione tra le rubriche in mostra e in scena, e non solo, parleremo anche di letteratura la prossima settimana. Comunque restiamo sul palcoscenico di Radio Città Fujiko con Alessandro Tampieri e iniziamo a dare qualche dettaglio in più a proposito anche di un aspetto logistico per le passeggiate artistiche, Alessandro. Allora, intanto che citavi Basoli, l'abbiamo voluto prendere come nostra ispirazione, proprio perché era stato definito il viaggiatore che resta a casa, chiudendo gli occhi riusciva a immaginare anche quello lontano, sia nel tempo sia nello spazio, e quindi ci sembrava il punto di vista giusto per parlare di questa mostra che abbraccia tanti anni e tanti luoghi. E ovviamente tutto questo poi si deve concretizzare in alcuni percorsi. Esatto. Noi ne abbiamo individuati due, Le camminate artistiche sono tre. Il primo percorso viene ripetuto due volte, il sabato 11 maggio e sabato 25 maggio alle ore 10:30, ed è un percorso che si snoda per il centro della città da via Barberia a via Belle Arti. Abbiamo voluto idealmente unire Palazzo Marescotti, sede del DAMS, in via Barberia, e l'Accademia di Belle Arti, passando di fronte al Teatro Comunale, perché erano un po' i poli attorno a cui si è svolta la vita di Basoli, che probabilmente ha camminato poco con i piedi ma tanto con la mente, perché era un incisore, miniaturista, pittore, scenografo, che ha unito il mondo della pittura e il mondo del teatro in quella realtà bolognese di veramente a chilometro zero, però che si è aperta al mondo. Ma in più partiremo anche da Barberia, perché l'antichità Barberia è una delle sedi espositive della mostra, che ha proprio un progetto su Basoli, sull'alfabeto pittorico, sul capolettera, che diventa anche un'esperienza tattile in collaborazione con l'Istituto Cavazza, e quindi ci faceva piacere partire da questo mondo in cui si chiudono gli occhi ma già con le mani e con il corpo si può essere ricettivi e aperti a un ascolto diverso. E la terza camminata che proponiamo invece non poteva non essere così, il nostro grande amore, la Certosa di Bologna, che è un po' un modo per aprire alle attività dell'estate vera e propria. Sarà sabato 1 giugno, sempre alle 10:30, e sarà un percorso dedicato, ispirato alla mostra, però interno alla Certosa, dove peraltro Basoli è sepolto, sì. e penso non solo lui, nel senso che comunque i grandi pittori di quel periodo poi, essendo locali, venivano sepolti in Certosa. Quindi, come dire, raccoglie un po' l'eredità spirituale e artistica di quella che è stato il loro lavoro, la loro opera. E quindi con Jimmy Tenor un po' di musica, poi torniamo con Alessandro Tampieri per queste passeggiate artistiche. Ovviamente ripeteremo le date, gli orari e le modalità di incontro. Intanto tanta, tanta emozione. A tra poco! Di Jimmy Tenor per Warp Intervision. Jimmy Tenor, questo folletto nordico, assomiglia un po' ad Alessandro Tampieri, adesso che ci guardo bene, certo non un omone, però con lineamenti scandinavi. Allora, per darne un esempio, non so, ovviamente un alfabeto è composto da tante lettere, da tutte le lettere. Basoli ha trasformato queste lettere in costruzioni architettoniche assolutamente fantasiose, ma questo già. E non so, con la P lui metteva una costruzione a piramide, ovviamente, perché l'iniziale della parola, se traslata in mito, classicità, cultura, storia, architettura, ecco, lui dava l'attinenza costruendone un'opera di fantasia, in questo caso con protagonista la forma della lettera. Esteticamente è meraviglioso. Ecco, quello che spesso capita in momento del sogno, no? Sapete che gli ultimi istanti poco prima della veglia è quello dove l'aspetto onirico diventa improvvisamente molto eccitato, molto così fervido. Beh, lì probabilmente sarete proiettati nel mondo di Basoli, almeno a me capita questo. Il paesaggio di Basoli è il paesaggio del sogno. Mi fa molto piacere perché, come avrai capito, Alessandro è uno degli artisti che io preferisco, che mi ha rapito, mi ha coinvolto di più, insomma. E com'è nata questa idea di prendere Basoli, tra l'altro? Allora, devo dire che... Colpa di Martorelli. Beh, è sempre colpa di Martorelli. È sempre colpa di Martorelli. Per te, per me di Canella, vedi? Ok. Devo dire che la frase "il viaggiatore che resta a casa" ci ha veramente aperto un mondo, letteralmente parlando. L'Ottocento è un secolo molto complesso per quello che riguarda le arti, non solo la pittura, ma in generale. Coesistono due anime: quella del romanticismo, della soggettività, dell'esperienza artistica, dell'emozione, e poi il realismo, il naturalismo. Soprattutto nelle arti visive c'è il grande intervento della fotografia, quindi di poter rappresentare la realtà per quella che era, o perlomeno di avere l'illusione di poterla rappresentare in maniera oggettiva. E in un certo senso Basoli racchiude entrambe le anime di questo grande secolo. Vero. Perché era un grandissimo riusciva a riportare nelle sue opere un'attenzione al dettaglio, ma quasi maniacale. Era un miniaturista, attento al piccolo, eppure si apriva all'onirico, quindi riesce a essere sia fotografico sia onirico nello stesso tempo, e ci sembrava veramente il giusto punto di partenza per questo viaggio nella mostra. E poi quest'anno si celebrano i 250 anni dalla nascita. Ah, ok. Per ecco. Cui ci sembrava anche un omaggio, un tributo. Ma certo, a un artista di cui forse si parla poco. Poco, sì, esattamente. Ah, ci pensiamo noi al Breakfast Club a dare importanza, e quindi però non vogliamo sottovalutare, e ci mancherebbe, quello che in maniera meritoria è stato portato da queste passeggiate in un'estesa realtà come il lungo 800 a Bologna, che come vedete può abbracciare diverse discipline ed espressioni artistiche. In queste passeggiate cosa succederà? Quel che si può svelare. Allora, non possiamo svelare più di tanto, già abbiamo detto i percorsi e ci siamo intanto un po'. Abbiamo usato svelare, non spoilerare, già questa è una bella cosa. Ci siamo sbilanciati. Noi proponiamo, e poi quando svelerò anche chi sta dietro questo noi, perché non sto parlando al plurale maiestatis. Siamo io, te e Basoli. Esatto. Proporremo delle attività, degli esercizi con gli strumenti artistici, teatrali, per avvicinarci a quello che è la mentalità di un pittore che dipinge fondamentalmente due grandi temi nell'Ottocento: il ritratto, le persone, la vita quotidiana, e la natura, il paesaggio, sia quello urbano sia gli spazi naturali. Quindi noi attraverseremo un sabato mattina il centro di Bologna, che sarà brulicante di prospettive, di vedute, ma anche di persone. Di persone. E interagiremo dando spunti, riflessioni per osservare, ascoltare, immaginare, ricreare un mondo affiancandoci a tutte quelle sedie, a quelle, e a quelle opere che non vedremo da fuori, ma cui passeremo vicino: Palazzo d'Accursio, Palazzo Fava, le varie sedi di questa mostra diffusa, e prenderemo degli esempi per far vedere come la vita fuori in realtà ha una continuità con le opere esposte dentro, che poi era un concetto dello stesso Basoli della stanza paese, che era l'illusione ottica, sì, per cui l'interno e l'esterno non avevano più soluzione di continuità. E quindi, insomma, questi sono esercizi a grandi linee che stimoleranno, ecco, l'osservazione, l'immaginazione, la creazione, per poi avere un punto di vista in più quando si andrà a visitare la mostra. Allora, intanto mettiamo un po' di musica, poi andiamo in pubblicità. Talbot and White è il brano che ci traghetta verso lo stacco pubblicitario delle 8:30. Sono le 8:26 minuti di questa vigilia di weekend, venerdì 3 maggio. Stiamo portando anticipazione a queste passeggiate artistiche. Abbiamo usato il noi un po' come plurale maiestatis perché siamo vanitosi, ma non è esattamente così. Bando ai nostri deliri autocelebrativi, torniamo in diretta e parleremo invece perché questo uso del plurale per quanto riguarda l'organizzazione per i motivi di incontro alle passeggiate artistiche. Intanto grazie Alessandro, noi ci sentiamo tra poco dopo la pubblicità con In Scena. voluto portare con questo rientro in diretta sempre un filo conduttore visionario. Lui è Kerem Abden, questo produttore di origine turco-tedesca, ma i più appassionati lo conoscono come Fortet. Ho portato alcuni dischi della Raw Recordings, ritorniamo con la Domino, questo lavoro Pause, che secondo me è il suo lavoro più riuscito, anche se da seguire in tutte le sue pubblicazioni, tra elettronica e narrazione visiva molto concreta e una bellezza appunto di percorso artistico. Non rischio di farti addormentare, perché vedo che ormai ti ho spezzato il sonno, quindi alle 8:36 minuti con il mattiniero Alessandro Tampieri procediamo nella nostra conversazione di presentazione e anticipazione tra arte e teatro, passeggiate artistiche nella nostra splendida città. In parallelo con il lungo 800 a Bologna salutiamo Roberto Martorelli, saluto anche Francesca Sinigaglia del Museo dell'Ottocento, che presto avremo assieme a Ilaria Chia per una realtà invece che ci porta, oltre che in mostra, a un concreto passaggio letterario. Ok, ma di questo magari ne parleremo mercoledì o giovedì prossimo al Breakfast Club, dopo questa anticipazione fuori programma di Palinsesto per le passeggiate artistiche con Alessandro. Ribadiamo che il nostro noi non era un plurale maiestatis, ma di collaborazioni. E chi comprende questo noi, Alessandro? Allora, questo noi comprende le mie compagne di viaggio. Il nostro progetto si chiama Metro Zero, che è un nome significativo nato durante la pandemia, quando questo famoso metro di distanza ci teneva maledettamente lontani. E invece è un nome estremamente poetico e profondo. Poetico per il metro è il battito della poesia nella musica, certo, metrica. È la metrica, ha una origine che condivide la radice di mater, di madre. È il metro del nostro pensiero, il modo in cui vediamo il mondo, e quindi volevamo un po' azzerare questa distanza e abbiamo pensato, insomma, che come artisti ci faceva piacere condividere gli strumenti della nostra formazione per far ritrovare le persone tra di loro e anche in relazione a quei luoghi e a quegli spazi che c'erano negati. E ci siamo ritrovati a confrontarci su questo bisogno, che non è solo artistico, ma era proprio un bisogno umano. Diciamo tre teste, tre menti, tre anime. Sara Giordani, che viene dal mondo delle arti performative, dello yoga, delle pratiche somatiche, della meditazione, e Giuditta De Concini, che è anche lei performer specializzata, interprete nel Bharatanatyam, che è il teatro danza uno dei teatri danza dell'India. Quindi anche quest'unione tra Oriente e Occidente ha portato a un grande arricchimento, un grande confronto, e da questo nasce poi la voglia di condividere, scendendo dal palcoscenico, non che non ci piaccia starci, però in questo caso ci faceva piacere parlare veramente al plurale anche con le persone che vengono ai nostri appuntamenti, cioè creare delle piccole comunità. Dopo essere stati tanto rinchiusi da soli, ci faceva piacere riportare il senso di comunità e dell'essere presenti e partecipi. Incontro tra Oriente e Occidente per il suo 250esimo compleanno. Basoli, per questo regalo ne sarà assolutamente contento, conoscendo la sua ispirazione tra Oriente e Occidente, appunto. We'll be right back. funky verso la conclusione di questa vigilia di weekend con il Breakfast Club. Allora, ricordiamo per le passeggiate artistiche le modalità di incontro e l'inizio, che sarà sabato prossimo, Alessandro. Allora, le date sono sabato 11 e sabato 25 maggio alle 10.30 per il percorso in centro a Bologna, e sabato 1 giugno sempre alle 10.30 per il percorso in Certosa. La modalità di iscrizione è mandarci una mail a progettometro0@gmail.com, numero telefonico 338 9300 148, e vi manderemo tutte le modalità di iscrizione, di punto di ritrovo, insomma ci sono un po' di dettagli logistici, certo, che è meglio mandare via mail o insomma con una telefonata vi diciamo tutto. E infatti mi piace a me quando viene ribadito il numero di telefono, lo so magari è inutile, però mi dà un che di umano ancora, no? Consultate il sito, no c'è altre possibilità, però immagino che anche in rete vi sia la possibilità per informarsi a proposito di passeggiate artistiche. Concludiamo con i progetti futuri, Alessandro. Tu mi hai parlato di un progetto futuro, hai detto poi magari ci sentiamo, creiamo il contatto con il Breakfast Club, con Radio Città Fujiko, se non ho capito male, perché ti vedo un pochettino così. No, hai capito di cosa sto parlando, parliamone allora. Sì, no, assolutamente. Non ero preparato a parlarne qua. Velocemente, insomma, no, grandi no, linee. No, velocemente. Da quest'anno io mi trovo partecipe al coro Comos, che è il coro LGBT di Bologna, e ci sarà a breve una rassegna che è Comos & Co, che è un modo per il Comos di aprirsi anche ad altre realtà musicali e di ospitarle all'interno di una nostra rassegna, e quindi la mia proposta era quella di trovare un appuntamento per parlarne in maniera più diffusa, anche certo, perché sono quattro appuntamenti con quattro generi musicali diversi, quindi insomma c'è un bel po' da dire. E ritenetevi arruolati con il Breakfast Club. Ci fa molto piacere, verremo preparati, io in questo momento non lo sono. No, ok, ero un po' come a scuola quando c'è l'argomento che non hai studiato. No, ma non ti preoccupare, in questo caso sei stato preparatissimo per gli incontri di passeggiate artistiche che, ribadisco, partono sabato prossimo alle ore 10.30. Per quanto riguarda questa anticipazione, così abbiamo dato qualche veloce informazione, ma ci sarà al Breakfast Club nelle prossime puntate. Silent Luft, concludiamo quasi, perché ho preso un brano in vinile come sigla di conclusione per questo venerdì, ricordando che ovviamente il Breakfast Club, oltre che augurarvi un buon weekend, vi dà appuntamento a lunedì alle ore 7 per la prima colazione in diretta. Intanto, di Ripeo enciclopedico a breve che dà anticipazione a Liberi Dentro, poi con Alfredo Pasquali e il sottoscritto William Piana la programmazione jazz per quanto riguarda il Torrione nel suo ultimo appuntamento di stagione 2024 nel prestigioso Jazz Club Estense il Torrione, e poi concluderemo con il Ravenna Jazz Festival che è un po' il cuore del Crossroads. Ne parleremo con Daniele Cecchini, tutto ciò a Jazz Live dalle 11.30 alle 12.30. Se avete bisogno di un DJ, non solo di uno speaker, sono vecchio ma sono ancora in grado, Alessandro, quindi fammi sapere, no, ok? Con l'Echo Afro concludiamo la nostra playlist e vi ringraziamo per l'attenzione. Oggi è stata un'edizione straordinaria, piacevolmente co-condotta con Alessandro Tampieri, e ci troveremo per le passeggiate che abbiamo appena anticipato sabato 11 maggio alle ore 10.30. Intanto un buon weekend a tutte e a tutti. Grazie per l'attenzione, un caloroso abbraccio da William Piana e da Alessandro Tampieri. Ciao! Ciao, grazie!